Buongiorno a tutti e bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. Questa è la seconda del mese di febbraio. La puntata è a due voci. Vi presento subito il collaboratore. Ciao Giuliano. Ciao a tutti, ben ritrovati. Grazie per la tua presenza qui. Allora, la puntata di oggi è un po' più corta di quella che avete già sentito ed è più che altro una puntata basata su un elenco di cose che vi potrebbero interessare e per le quali potreste spendere un po' di soldi. Quindi se avete paura di avere la carta di credito facile, passate a un altro podcast. Diciamo che io mi sarei già comprato tutto, però mi devo mantenere, ho delle altre spese più importanti. Ci autolimitiamo, ecco. È difficile, ma ci possiamo provare. Allora, io partirei da due nuove schede di Arduino che sono in vendita, anzi, scusate, di Genuino, perché qui in Europa è Genuino, che sono la Genuino 101 e la Genuino 0. Allora, sono due schede molto interessanti. Lasciate perdere il numero 0 che fa il paio con il Raspberry di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa. La Genuino 101, rispetto alla Genuino standard, ha l'hardware di Intel, quindi il chip è fatto da Intel. Intel in questo periodo si sta lanciando molto sui chip piccoli, sulla domotica con il Galileo, e ci sta lavorando parecchio. In più ha il giroscopio e l'accelerometro, un po' come la scheda Uduneo. È interessante perché un Arduino di questo tipo si può mettere su dispositivi su ruote mobili o con eliche o con ali e può essere gestito nel movimento nello spazio. Costa 26 euro, che è poco più di un Arduino standard. Ma ha anche il Bluetooth? Oddio, sai che adesso mi stai facendo una domanda così al brucio della quale non ho la risposta. Perché mi pare di aver letto che ha anche il controllo sul Bluetooth, ma... Allora, se ha sì, giroscopio... Sì, ha il Bluetooth, quindi si può fare l'app e si comanda con il Bluetooth. Eh beh, insomma... Signori cari, a questa cifra è veramente interessante. Vabbè, certo, se consideri l'hardware e anche il fatto che è Bluetooth, insomma. E il Bluetooth veramente... ha un enorme vantaggio rispetto al Wi-Fi, consuma veramente poco. Certo, perché ce l'hanno anche tutti i cellulari, quindi. Sì, ormai non c'è più nessun, a meno che non vi comprate quelli lì a tasti grandi per la nonna, tutti quanti hanno il Bluetooth, e quindi potrebbe essere un ottimo spunto per sviluppare anche app per i telefonini. E anche lui un 32 bit, quindi non è più un 8 bit come l'Arduino normale. Sai, questo lo vedo anche per dei progettini che riguardano la didattica, perché con il Bluetooth, volendo, ci puoi far comunicare anche il PC, e sul PC ci fai girare Scratch e sei volendo... a posto. Sì, vero, sì, vero. Sì. Scratch ormai è una piattaforma per la didattica pazzesca. Sì, assolutamente. Ma tra l'altro, il concetto stesso di Scratch si sta espandendo a mille cose, tra cui una che ho visto che mi è piaciuta tantissimo è un software per la modellazione 3D, per chi come me, per esempio, di modellazione 3D non è che abbia mai visto un granché. Ormai adesso girano tutte queste stampanti 3D eccetera, però se effettivamente non sai farti il tuo progettino 3D, cioè con la stampante diventa 3D difficile lavorare col CAD per farsi il progettino 3D da stampare, non è proprio semplice. Appunto, invece ti posso assicurare che con questo tra l'altro è un sito che si può anche visitare, si riesce a fare delle cosine veramente veramente belline con i blocchettini come Scratch, che poi oltre a questa è l'ultima cosa, ma io ho usato tantissimo l'App Inventor per esempio per fare le applicazioni su Android, e molto molto carino, funziona benissimo. E tra l'altro fare un'applicazione è diventata veramente, oddio, un'applicazione che ha i suoi limiti soprattutto per la grafica eccetera, che però volendo insomma si riesce a realizzare qualcosa di buono. Bene, bene, è una cosa che... Allora, io ho visto Scratch in rarissimi casi. Ho visto che Scratch è installato praticamente su tutte le distribuzioni Linux, sul Raspberry anche, quindi tu ti compri il Raspberry, hai un PC che costa poco e hai Scratch sopra. E per i bambini dicono essere veramente, veramente carino. Se sì, lo sì, applicano sì, anche ad altre cose, non è male la questione, eh? No, no, ma guarda, tra l'altro ci sono anche ovviamente le varie diciamo distribuzioni, ma comunque varie versioni della programmazione a blocchi, chiamiamola così, per varie altre cose, a parte la grafica, ma ci sono anche quelle per esempio per la programmazione di Arduino, per dire. Non mi ricordo neanche come si chiama, Blockly forse, una cosa così. Sai che non lo so. E poi per esempio ci si può programmare sempre con la stessa filosofia anche i robottini, quelli della Sfero, hanno un'applicazione credo solo su iPad, per la programmazione del robot. Ah, carino, molto sì, carino. Sì, sì, sì, interessante. Per la didattica, guarda, veramente c'è con Scratch e comunque la programmazione a blocchi c'è veramente da sbizzarrirsi. E devo dire che per come ho potuto verificare io con mia figlia e bambini vari, funziona parecchio, insomma. Sì, i bambini, ma poi figa, sono delle spugne, quindi non stiamo neanche lì a dirlo. Loro, guarda, è per quello che va tanto di moda e funziona bene il Coder Dojo, perché gli forma la mente su quello che è la programmazione, e nel futuro secondo me la metà dei lavori sarà basato su capire un algoritmo o sviluppare un algoritmo per risolvere un problema. Ma guarda, io effettivamente non dico che poi tutti debbano fare i programmatori, però questo tipo di pratica sviluppa un tipo di pensiero logico che comunque prescinde dal fatto che uno vada a fare il programmatore eccetera, ma ti dà una base di ragionamento logico che io vedo che nelle scuole in questo momento non insegnano. Purtroppo no, purtroppo ti assicuro che queste cose per le scuole sono troppo futuristiche ed è un peccato. È veramente un peccato. Sì, assolutamente. Ci sono delle, sai, di quelle le isole felici, no? Un po' qua e un po' là, però non essendo una cosa generalizzata non va ancora bene, insomma, ecco. E vabbè. Io, guarda, conosco alcune famiglie che hanno figli piccoli, loro si divertono tantissimo su questa cosa. È un peccato che la scuola non le propongano di base, perché davvero sono delle... ti aprono la mente. Ma guarda, il problema della scuola è che anche adesso hanno investito un sacco di soldi, eccetera, però vogliono sempre... non vogliono mai mettere dentro delle nuove come si può dire, professionalità. Adesso vorrebbero, per insegnare il coding nelle scuole, eccetera, formare degli insegnanti che diventano dei promotori all'interno della scuola per questi progetti qua. Cioè, se una scuola non ha un nerd che che possa usare per fare questa cosa qua, è una scuola che non riuscirà mai ad offrire queste cose qua. Io non so se sia la soluzione migliore quella di voler sfruttare e caricare ancora qualcosa sui docenti che già ci sono, non lo so. Va un po' fuori dal campo di questo podcast, però secondo me la piattaforma di Arduino è una delle migliori per fare questo. È assolutamente una piattaforma interessante, soprattutto perché ti insegna, partendo veramente dalle basi, un sacco di roba. Prendi il kit per partire, lo starter kit di Arduino, hai progetti che un ragazzino boh, secondo me di quinta elementare, prima media, può fare senza nessun problema. Assolutamente, ma poi oltre ad insegnarti la programmazione, ti insegnerà anche magari un filino di elettronica che comunque non guasta. Verissimo, verissimo, che poi magari potrebbe sempre tornare utile per ammazzarsi per benino facendo corto sulla 2.20. Sì, esatto. Ok. Bene, bene. Mentre l'altra piattaforma di Arduino genuino è lo Zero, che costa un po' di più, però ha un processore ARM Cortex, quindi è davvero interessante. Ha la differenza rispetto a tutti gli altri Arduino che lavora a 3,3 volt. Quindi se comprate schede nuove di Arduino genuino, guardate bene le tensioni, perché in certi casi dovete adattare i vostri sensori o gli alimentatori. Beh, anche il 2 va solo a 3,3. Sì, sì, hanno due serie diverse, quelle a 5 e quelle a 3,3. Tra l'altro, alcune vanno con alimentazioni anche fino a 9 volt, altre gli devi dare il 5 e basta. Quindi bisogna fare un po' di attenzione sulle tensioni in gioco, perché rischiate davvero di bruciarvi la scheda, visto? Cioè, costa poco, ma non è zero, quindi non ne vale la pena. Il brutto fumo, insomma. Giusto, giusto. Che tra l'altro puzza anche, perché quando bruci un chip quella puzza di plastica, sì, è antipaticissima. Assolutamente. Già fatto più e più volte. Una cosa interessante, vi mettiamo il link, è un progetto enorme di Kickstarter, di un piccolo drone, ha raccolto 3,6 milioni di dollari e sono spariti. Caspita. Vai sul sito e non esiste più il sito, non c'è più il progetto, ma si sono presi 3 milioni e 6. Questo è il famoso rischio. Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che la cosa, insomma, un attimino che potrebbe così consolare chi l'ha fatto è che probabilmente non hanno speso tantissimo, insomma, adesso non so quanto fosse il costo del ma lì sai, varia sempre tipo da $1 a un prezzo che è comunque corposo, magari $500. Se gli hai dato $500 ti girano anche un sì, po' le scatole, un pelino, diciamo, giusto, un pelino. Quindi un pelino. Purtroppo non si può sapere se un progetto va a buon fine oppure no. Ricordate che se mettete dei soldi su Kickstarter il rischio c'è. Vabbè. È interessante il nuovo progetto di Humble. Io Humble l'ho conosciuto con il famosissimo e vecchissimo Humble Indie Bundle. Praticamente era un pacchetto di videogiochi indie che tu potevi comprare al prezzo che volevi. Erano 5 giochi, ma se spendevi un po' più della media, te ne davano 7. E ogni tot uscivano dei giochi nuovi. Non so se hai mai bazzicato su quel sito lì. Anche lì è pericolosissimo, perché ora si sono evoluti anche per le app per Android, per software, insomma, è interessante, offrono un sacco di cose e si spendono un sacco di soldi, e soprattutto tu paghi quanto vuoi e puoi destinare le percentuali agli sviluppatori o a enti benefici. Il sito è veramente interessante e i progetti sono interessanti. Ora hanno fatto una raccolta di manuali per stampa 3D e droni. Paghi quanto vuoi e hai questi manuali, ma il quanto vuoi è anche $2, eh? No, ma allora, no, Francesco, però tu questi link non li devi dare. No, guarda, poi, non so, tu hai Windows o hai Mac? No, Windows. Ecco, attenzione, gli Humble Indie Bundle tendenzialmente sono giochi per Windows e sono belli, quindi seguili e tieni pronta la carta di credito, ma fanno delle offerte veramente carine. E io che sono abituato a comprare su GOG, quindi... GOG è anche un sito fenomenale per i videogiochi, questi giochi vecchi senza DRM e a prezzi ragionevoli. Esatto, esatto. Ma infatti io non sono uno che ha velleità di fare l'ultimo giochino appena uscito, per cui vanno benissimo. E e GOG ha veramente dei bei giochi. Il problema è che in alcuni casi non vanno più sui PC moderni, quindi devi attrezzarti un attimo. Sì, ma infatti, vabbè, l'ho fatto con qualche giochino DOS, con qualche DOS box, cose del genere. Infatti. Ormai va bene. E poi direi di chiudere la prima parte con la nuova scheda Genuino MKR1000. Allora, è un Arduino, è piccolo come, mi pare, il micro, e ha il Wi-Fi. Quindi non ha bisogno più dello shield, quindi potrebbe andare a combattere con l'ESP. Una partita persa, però, scusa. No, beh, però c'è Arduino dentro. No. Cioè, il prezzo sarà certamente più alto dell'ESP, però un Arduino che abbia già il Wi-Fi dentro, senza, non sembra, lo shield di Arduino lo fa diventare veramente grosso. No, vedo che le dimensioni sono molto contenute. Tra l'altro il processore è bello massiccio rispetto allo standard, e il fatto che ci sia addosso anche il Wi-Fi, devo dire che ne fa un buon candidato, soprattutto in quegli ambienti in cui hai dei sensori non digitali ma analogici. Perché anche l'ESP ha un'uscita, cioè, o meglio di un'uscita, sì, un ingresso comunque analogico, mentre tutti gli altri sono digitali. Quindi se devi metterci più di un sensore, siamo là. E Arduino gestisce molto molto bene i sensori analogici, su questo non c'è ombra di dubbio. Quindi non so quando uscirà, ma è una cosa interessante davvero. E poi un'altra cosa di questo che è interessante, molto interessante, è il fatto che include anche il circuito per caricare le batterie LiPo, che comunque sono sempre di quegli accessorini che devi aggiungere per poter poi completare il tuo sensore standalone. Diciamo sì, tu così. Pensa di mettere il pannello solare lo leghi a lui, lo alimenta, carica le batterie, manca il sole e la batteria lo tiene attivo di notte, finito. Appunto, mi dici niente, caspita, è il sogno praticamente di tutti. E quando uscirà potrà essere una nuova scheda interessante. Non so il prezzo, io andrò all'Arduino Day quando è a aprile, magari ci sarà qualche informazione extra. Bene, speriamo non sia troppo caro. Un Arduino Day dalle tue parti, vai, è interessante. Non credo che lo organizzi. Peccato. Ma non si sa mai. Mannaggia. Adesso possiamo parlare di una categoria di oggetti leggermente diversa, che non è proprio da smanettoni, ma è un po' più per la casa domotica e soprattutto fa concorrenza a una nota marca. Ne vuoi parlare tu? Sì, diciamo che non è proprio una cosa da smanettoni, ma diciamo che è una via di mezzo, però sicuramente una cosa che ho visto sta invece prendendo piede, nel senso che stiamo parlando di lampadine, ma non delle solite lampadine tradizionali. Stiamo parlando di lampadine smart. Probabilmente ci saranno molti ascoltatori che conosceranno quella della Philips, che è la Hue, come lo vogliamo leggere, che ha alcuni pregi e un grosso difetto: costa un pacco di soldi. Sì, direi che il kit di avvio, perché le Hue chiedono una centralina, quindi non sono wifi standard. La centralina contro lampade fa 270 euro ed è una follia. Mamma mia. È sicuramente fuori dal mio budget in questo momento. Il vantaggio delle UE è che si integrano veramente con un sacco di roba. Poi le hanno sviluppate insieme a Apple, quindi si integrano perfettamente con Apple. Adesso vado sul sito di Amazon e cerco di capire qual è il vero prezzo, perché la lampadina RGB standard da sola fa 60 euro, che è cara, ma per esempio quella solo bianca fa 20 euro. non è una follia. Il no, problema delle U è il kit starter della, con la centralina, che ora non trovo, ma vi metto poi nelle, nelle note del, dell'episodio. C'è il kit con le tre lampadine, se sono le tre RGB costano veramente care. Caspita. Tra l'altro, con un protocollo che se, era venuta fuori anche un po' di storia da, da poco, per cui non è esattamente un protocollo aperto, ma anzi, avevano deciso di chiuderlo per comunicare solo con alcune cose piuttosto che su un'altra, se non poi credo tornare indietro. Sì, perché si sono lamentati tutti. Immagino. E quindi hanno dovuto fare questo passo in dietro. Il problema dei protocolli che io noto è che è sempre solo uno, non c'è nessuno standard, e quindi il problema è che ognuno si fa il suo e tutti quanti faranno tutto quello che vogliono, e non c'è niente da fare. Se parli con SmartThings non parli con Memo o con U, cioè è proprio, sono tutti quanti distinti. Ma torniamo alle nostre lampade. Continua pure, ti ho interrotto. No, niente, diciamo che parlando di alternative a questa, ne volevo segnalare una inizialmente, che è, tra l'altro, è una lampadina progettata in Italia da dei ragazzi, credo di Roma o qualcosa del genere, che tra l'altro ha riscosso un po' di successo ultimamente in un hanno vinto un premio, insomma, per questa cosa qua, per l'innovazione, e la lampadina si chiama come si chiama? Automation. No, dunque sì, la ditta si chiama Automation, però la lampadina credo che si chiami LYT o LIT, e praticamente ne hanno prodotto una prima versione che somigliava molto a quella della Philips, perché anche lì avevano c'era bisogno di una centralina per comandare la lampadina, perché aveva un suo... la lampadina aveva un suo ricevitore, mentre invece poi ne hanno progettato e costruito una che invece integra un ESP, per la mia gioia, no? per farmi contento. Per cui questa lampadina è una lampadina che è praticamente programmabile, che quindi integra il Wi-Fi, che è compatibile con Arduino. Per cui la si può comandare da qualsiasi cosa, quindi anche volendo dal cellulare, facendo un'app con, come dicevamo prima, con semplicemente con l'App Inventor. È una lampadina che è RGB più white, quindi non è una delle solite lampadine cinesi con RGB, per cui quando devi avere il bianco è un bianco sporco, non esattamente bianco, volevo sì, dire, quindi perché un po'... fanno il bianco con l'accensione delle tre RGB contemporaneamente, ma ci sono tutti i riflessi dei tre colori, quindi non sì, è proprio esatto. Bianco non è il cioè, diciamo che per far scena potrebbe andare bene, ma se te la devi mettere nel salotto non è che ci vivi bene con quel tipo di bianco lì, per cui queste invece integrano anche il bianco. Non sono carissime, partono da credo 27-28 euro. Allora, sono davanti al sito, lo starter kit con una lampada più la shield per Arduino fa 50 euro. Ecco, se... quella però è la shield... per Arduino, e quello è il kit che contempla la versione precedente, cioè quella senza l'ESP. Quello è la shield. Allora non so dove siano le altre. No, beh, sono lì sul sito, ci sono nella sezione dei maker, credo. Sono nella sezione maker. La lampada da sé fa 25 euro. Ecco, perché ce n'è anche una in kit, penso, mi pare, che è quella con l'ESP, che dovrebbe costare... Fa 27 euro e 90. Bellissima, ecco, il kit di montaggio, ci sono i singoli pezzi. Pronto? Eccomi. Ok. Ti avevo perso. Ok. Praticamente tu compri la lampada e ci sono i singoli pezzi. Sì, esatto. E tra l'altro programmare l'ESP per chi ha già un minimo di esperienza con l'ESP è semplicissimo, perché si fa con i soliti metodi con cui si programma un ESP tradizionale. Il vantaggio quindi è avere la lampadina programmabile, che tra l'altro, allora, a parte poter essere comandata con Node Red, per dirne una, ma mi vengono in mente tante cose, però si può anche utilizzare con un'altra app che abbiamo provato da poco, che si chiama Blink, con cui ci si può fare un semplice progettino di app proprio per comandare la lampadina, e da lì si può accendere, spegnere e regolare anche l'intensità luminosa e variare i colori. Veramente una roba da 5 minuti, perché si tratta di caricare lo sketch sull'ESP e in 5 minuti fare il progettino per l'app sul telefonino. Secondo me una figata assurda. Perfetto, sono le lampade per gli smanettoni. Io ti propongo invece delle lampade sempre RGB, sempre connesse, sempre alternative alle UDI Philips, che sono le NatuLED, o come diavolo si possono chiamare. La lampada costa 40 euro singola, e un RGB, non è RGB, è bianco. L'attacchi, ti scarichi l'app e la lampada funziona. Finito. Beh, già questo anche diciamo meno da smanetto, un po' meno da smanettoni, molto meno da smanettoni, e funziona subito. Costa veramente poco, perché se l'attacco è 39,90 non è una follia, visto che la lampada da sola della U mi pare faccia 50 euro, però sì. non ha bisogno della centralina. Devi avere ovviamente la casa con il wifi che copra bene, perché le lampade di U sono interessanti perché tu devi avere la centralina che si collega in wifi. Poi tra loro fanno una rete mesh, quindi anche se sono molto lontane basta che si vedano tra di loro. Ho capito. Mentre questa qua è soltanto wifi, quindi devi avere copertura wifi buona in tutta la casa. Non ho provata né una né l'altra, però prima o poi la lampada RGB comandata me la prendo per puro scopo di studio. Non è vero, sono assolutamente malato e quindi me la comprerò. Anch'io prenderò una di quelle là, di quelle con l'ESP, per ovvie ragioni. Chissà come mai, ma non l'avrei mai detto. Non l'avete detto. Però ho visto che anche queste NatuLED sono RGB white, comunque. RGB quindi, white sono io che mi sono confuso? Sì, quindi non sono, insomma, scheda così. Tecnica, già RGB, ok. Ho scoperto cosa comprarmi per il compleanno. Perfetto. Queste, ma sai che sono queste lampade, sia una che l'altra, sono bellissime per la storia della cromoterapia. Te la metti nel bagno mentre fai la doccia e ti fai la cromoterapia. È uno dei pochi posti dove io posso mettere una lampada con questo attacco qua, perché ora ho messo tutte le lampade LED bianche in casa. Devo solo trovare il modo di sostituire la lampada a piantana, che è ancora la alogena. Poi non ho più niente di filamento. Anche in cucina, sulla cappa, oggi ho sostituito la lampada da 40 watt a filamento con una LED da 4 watt. Quindi immagino il discorso è che, tra l'altro, si fa anche un bel discorso sulla bolletta con queste cose qua. Sì, assolutamente sì. Poi, allora, a casa mia purtroppo, essendoci dei servizi che girano sempre, un po' di consumo di base ce l'ho, ma se risparmio, certo, sulla faccenda luce non è male. Immagino, anche perché insomma non è esattamente una voce piccola. Se io mi ricordo, cioè passare da tutto filamento già alle lampade a consumo ridotto quelle diciamo fluorescenti o come diamine le vogliamo chiamare, quelle risparmio energetico. Sì, sì, si risparmiava già parecchio, ma LED è un abbattimento pazzesco. Sì, sì, sì, assolutamente. Poi io ho trovato una fonte dagli amici dietro l'angolo di lampadine LED buone, per cui perfetto. Ho risparmiato anche di più. Molto molto bene. Allora, vediamo un po' la scaletta, cos'è che dice. Sì, mi hai fatto vedere questo sito di questi interruttori, ora io li voglio comprare tutti. Interruttori Livolo o Livolo, come si chiamano? Cioè, voi immaginate, avete a casa un qualunque serie, Ticino, Gavis, di qua di là, questi qui sono interruttori standard, togliete quello vostro vecchio stile, mettete questo qui nuovo, può essere wifi, può essere comandato dallo smartphone, boh, finito, io sono già lì che li sto comprando. Ma tra l'altro sostituibili veramente da chiunque, perché togli l'interruttore che hai, compreso di placchetta, eccetera, supporto, eccetera, eccetera, prendi i due fili dell'interruttore, li butti dentro il nuovo interruttore Livolo, richiudi tutto, pronto, hai un interruttore più o meno, diciamo, semi-smart o smart, touch, tra l'altro anche di una fattura discreta, perché il frontale è di vetro, per cui non scolora, insomma ha dei suoi vantaggi, touch con anche l'indicatore che te lo fa trovare di notte, perché si accende credo diventi rosso quando è spento e azzurro quando è acceso. Tra l'altro allora è comandabile con dei radiocomandi che tra l'altro credo che si trovino anche facilmente in giro da poter duplicare, ma non solo, essendo una frequenza standard a 433 MHz si potrebbero anche comandare tramite Arduino, Raspberry e compagni, accoppiandoli con un trasmettitore che è facilissimo da reperire, costa forse 30 centesimi, però vi permetterebbe ad esempio di simulare la presenza in casa accendendo e spegnendo le luci quando non ci siete, per fare da deterrente sto già pensando a integrarlo con il mio bot di Telegram. Madonna, no, che figata. No, ma allora lì arriviamo all'apoteosi del nerd, perché accendo la luce via Telegram. Non devo passare un filo, così Valentina è contenta, perché sai che le mogli sono antifilo. Assolutamente. Fantastico. Boh, sei la mia rovina. Grazie. Esatto. Ma guarda, ma poi hanno anche una tecnologia non indifferente, ma tu pensa che all'interno dell'interruttore che si occupa di c'è un microprocessore che si occupa di gestire tutta quanta questo ambaradan per il touch, che è autoalimentato dal sistema dell'interruttore, eccetera. Quindi è anche un pezzo di tecnologia da tenere d'occhio, perché potrebbe avere dei risvolti come si può dire, delle evoluzioni interessanti su questa cosa. Ma sai cosa? La casa domotica, il problema attuale della casa domotica è che o hai la casa nuova e quindi ti fai passare tutti i cavi, o stai ristrutturando tutto e fai passare tutti i cavi, se no è un casino della Madonna. Assolutamente, e infatti il problema che mi sono posto io per un certo progettino che ho in mente, e per cui questo interruttore è venuto di conseguenza, l'acquisto, perché io ce l'ho, questa volta non puoi contagiarmi nell'acquisto, perché io ce l'ho già. Ma quanti ne hai acquistati? Ne ho acquistati un paio per fare dei test e devo dire che funzionano veramente veramente bene. E la consegna? La consegna è la solita. Solita, cioè due mesi? Sì, un mesetto, ma comunque sempre dietro l'angolo, diciamo così. Ah, perché loro vengono dalla Cina? Assolutamente. C'è anche un sito. Allora, il discorso qual è? C'è anche un sito in Francia, credo che te le spediscano da lì, ovviamente costano di più, ed è difficile reperirle per lo standard italiano, perché non ho capito bene, però a quanto pare le scatole portafrutto, così si chiamano, che utilizziamo noi per alloggiare gli interruttori, eccetera, sì, non sono effettivamente lo standard europeo. Non chiedermi perché, ma guarda a quanto caso pare sono lo standard americano. Infatti io l'interruttore ho dovuto prendere quelli per USA / AU, che credo che sia Australia. Non so esattamente quale sia lo standard europeo, peccato non ci sia Mario, altrimenti avremmo intavolato una discussione su questo, però ho visto che quelli europei sono quadrati e non rettangolari come quelli che abbiamo noi, e con la scatola credo sia rotonda, come quelle antiche che una volta noi avevamo in casa. Sì, me le ricordo. Per cui adesso non ho approfondito la cosa, però posso dire che sicuramente per le scatole italiane vanno bene, e credo che siano quelle su, c'era un sito, è il forse il, la mod- il modello è, il, ah, è la serie C8, è quella che è adatta per sì, le scatole, sì, sono sul sito ora e arrivano da AliExpress, quindi ok. Sì, hanno un grosso shop lì su AliExpress, vendono praticamente tutto, ma vendono, oltre, se uno vuol farsi ovviamente l'interruttore identico alla presa, eccetera eccetera, ci sono anche le prese con lo stesso fatte con lo stesso materiale, diciamo, con lo stesso vetro, e quindi coordinate, diciamo così, ecco. Ovviamente di questi interruttori c'è anche il modello con il dimmer, quello che ti permette di variare l'intensità luminosa della lampadina, sempre con lo stesso sistema, cioè non hai bisogno di modificare niente, piazzi quello e la tua lampadina diventa una lampadina dimmerabile. Ecco. Bellissimo, ovviamente, bellissimo. Se hai una lampadina LED, devi ricordarti che deve essere una lampadina che consente il dimmer. L'unica cosa che bisogna tenere presente è che avendo un circuito interno per cui tutto il sistema prende l'alimentazione tramite la lampadina stessa, con un giro che adesso non sto qui a spiegarvi perché è una cosa un pochino tecnica, se avete una lampadina che assorbe meno di un watt, avete bisogno di un adattatore da installare vicino alla lampadina stessa, perché altrimenti l'interruttore non funziona. Ok, ho capito. Io ricorderei solo a tutti quelli che si comprano queste cose e che vogliono cominciare a metterci le mani: quando staccate i fili della 220 dai dispositivi, sempre la corrente tolta, perché prendere la 220 fa male. Fa male. Non è una bella cosa. È che rischiate di ammazzarvi. Quindi, se dovete fare questo tipo di lavoro e non siete capaci, ve li comprate e ve li fate montare da un elettricista. Però prima ditegli: guarda, sono cose particolari, perché non tutti gli elettricisti ne sanno di queste cose qua. Se invece voi ne sapete, lo volete fare, ricordatevi sempre di farlo con la corrente staccata, ok? Mai fare le cose con la corrente attaccata. Assolutamente, perché poi è la come si può dire, la sicurezza di fare le cose dove poi invece trovi il brutto. Sì, infatti. Oh, io sono sicuro, oh, l'ho fatto mille volte. Certo, certo, poi tanto è solo il cacciavite, poi ti distrai un attimo, tocchi al posto che il manico del cacciavite, il bordo del cacciavite, e ti prendi la botta. Meglio, esatto, di no, ok? Meglio di no, sì, assolutamente. Mi raccomando. Allora, chiuderei con questa puntata con l'ultima cosa che ho scoperto oggi, che mi hanno fatto vedere, che mi ha fatto morire. Un pazzo che si definisce, ora non so se è un mestiere vero, progettista di robot Lego. Se è un mestiere vero, ora mando il curriculum. Ha progettato questo sistema che gli metti un foglio di carta, lui lo piega, crea un aeroplano di carta e lo lancia. Bisogna vedere il video, perché no, madonna, non è niente da acquistare, non penso che questa cosa sia in vendita, ma è bellissimo, è fatto veramente bene con i sensori, la presenza del foglio, piega questo, piega l'altro, schiaccia, lo piega in due, e poi delle ruote girano e l'aereo parte, è fantastico. Ma, guarda, io veramente di queste persone invidio, anzi diciamo sono geloso praticamente del fatto che a queste persone vengano in mente delle idee e che riescano a proprio a realizzarle, perché a me vengono in mente tante idee ma dico ma veramente questa cosa qua, ma quando mai? E invece questi li fanno. Sì, ed è veramente bello. Poi tra l'altro nel video fa anche vedere un altro macchinario che ha fatto questa persona, che è una specie di scultore 3D, fa delle cose bellissime, tutto fatto con i Lego. Quindi andate a guardarvelo e sbavate leggermente. Esatto. Bon, direi che possiamo chiudere questa puntata dedicata alle vostre spese con la carta di credito. Fateci sapere se comprate qualche cosa, se siete contenti, se non siete contenti. Se non siete contenti, noi non siamo responsabili, che sia chiaro. Vi lascio i contatti del podcast, ci trovate su Twitter a GCookiescast. Ci potete mandare una mail a gcookiespodcast@gmail.com, ci trovate sul nostro sito gcookies.github.io, dove potete scaricare o ascoltare anche in streaming le nostre puntate. La pagina Facebook gcookiescast, la comunità su Google Plus gcookiespodcast, tutti nomi diversi perché non abbiamo trovato un nome che fosse libero su tutte le piattaforme. Ricordatevi che siamo su iTunes e su Stitcher per abbonarvi ai feed, ma qualunque app, se cercate GCookies trovate il podcast. Ricordatevi il nuovo canale su GitHub per discutere, per fare domande, per anche solo per proporre un problema che avete con una scheda, magari qualcun altro degli ascoltatori o noi possiamo darvi una mano. I link che mettiamo su Amazon sono link sponsorizzati, quindi se comprate da quei link a noi arriva una piccola percentuale e a voi non cambia niente. Ci è servito per fare il concorso per regalare il Raspberry Pi 0, ci serve per aggiornare i nostri dispositivi per fare il podcast, eventualmente per pagare qualche servizio. Per esempio a gennaio abbiamo donato dei soldi sia al progetto di Audacity che a Archive, che è il sito gratuito che hosta i nostri file. La sigla iniziale e finale come sempre viene da Gemendo e la canzone Sad Robot dei Pornophonic. E dovrebbe essere ancora valido, poi vi aggiorniamo nelle prossime puntate, il codice di sconto GCookies scritto tutto maiuscolo per comprare una scheda UU2 oppure per ordinare degli accessori. 10% di sconto e spese di spedizione gratis. Dovrei aver detto tutto. Quindi direi che ci sentiamo alla prossima puntata, forse se riusciamo con un ospite davvero interessante. Un saluto da Francesco da Torino. E un saluto da Giuliano dalla Sardegna. Grazie e alla prossima. Ciao!